Ciao a tutti e bentrovati nella nuova puntata di Futura 1993 nelle frequenze di Radio Città Fujiko. Lo stavi dicendo tutto d'un fiato perché avevi paura di sbagliare nome, di verità. Sì. Ciao, di un po' chi sei perché... Sempre io quello della settimana scorsa. Per chi si fosse sintonizzato solo durante la seconda settimana del nostro format, ricordiamo che siamo in onda Francesca e... Giorgio. Esatto, quindi Giorgio è un nuovo collaboratore della nostra piccola redazione che in realtà sta crescendo giorno dopo giorno. Quindi io, come sempre, è mio dovere ricordarvi che se volete far parte anche voi di questo network che cresce sempre di più, scrivete a redazione.classefutura@gmail.com. E come al solito non fate i timidi, ma vediamo a noi. Vediamo la settimana noi. Scorsa avevamo promesso che avremmo iniziato il giro di interviste. È vero, giusto? È vero, assolutamente. A chi è toccato questa settimana? Questa settimana intervisteremo Manfredi, un artista che conosciamo già da un paio di anni. Lui fa parte del roster di Fulica, torna dirompente dopo due anni di silenzio, e quindi io direi di ascoltarci la sua Hollywood e poi rimanete con noi per quattro chiacchiere con Antonio. Vorrei essere a bordo di quella cartina, quando la leggi per chiudere il drum. Ti trattengo con una scusa, sì lo so che domani parti, torni alla tua vita e spero di mancarti. È che mi piace solo quando è complicato, sì ma tanto. Tu che vuoi il principe azzurro e trovi me che sono peggio in tutto. È che mi piace solo quando è sdolcinato, sì ma tanto. Il traffico è un drive-in e danno solo notting in. Sogno una Vespa, il casco no. Tu che mi stringi ai fianchi, ma se ti bacio poi ti scansi. E non dovrei guardare troppi film, se no la vita poi fa schifo e sembra tutto un po' più grigio. E non dovrei guardare troppi film, lo sai anche tu, l'amore è una bugia di Hollywood. Che mi piace solo quando lo considero uno sbaglio, solo quando litighiamo, poi ti chiamo ma è occupato. È che mi piace solo quando poi mi dici che c'è un altro, solo quando non resisto, piango e scrivo un altro disco. Sogno una Vespa, il casco no, e di andare a letto solo se ci sei tu dentro. E non dovrei guardare troppi film, se no la vita poi fa schifo e sembra tutto un po' più grigio. E non dovrei guardare troppi film, lo sai anche tu, l'amore è una bugia di Hollywood. L'ultimo bacio non si nega mai, le fumi ancora le malboco. Che mi piace solo quando poi prometti che non ti scorderai. Pronto? Ciao, sono Ciao, Francesca. Come stai? Bene, bene. Siamo io e Giorgio E... ciao Antonio, benvenuto. Ciao Giorgio. Ti diamo il benvenuto sulle onde medie di Radio Città Fujiko e per farti alcune domande. Allora, noi ti abbiamo ascoltato e per chi ancora non ha letto il nostro articolo su di te, e invitiamo tutti quanti a andare insomma sui nostri magazine partner per scoprire un po' qualcosa in più su di te. Però anche noi approfittiamo per farti qualche domanda. Allora, adesso è uscito il nuovo singolo Hollywood, quindi ormai è un mesetto. Raccontaci un po' di cosa parla questo nuovo singolo. Allora, Hollywood è un brano che ho scritto in un periodo un po' particolare. Uscivo da una storia che per me era stata comunque importante, sai, la fine del primo amore, il primo amore adulto, se vogliamo. E in quel periodo stavo anche guardando un sacco di film, cioè sai, proprio da stereotipo, no? Played, gelato, film romantico. Io adoro gli stereotipi. Esatto. E quindi c'era questo mix delle due cose, c'era un ribollire di sentimenti legati alla rottura, poi avevo gli occhi pieni di cinema, pieni di queste immagini, film cult come Pretty Woman, Notting Hill e via dicendo. Classiconi proprio. Classiconi, sì sì. E dall'unione di queste due cose è nata Hollywood, che è appunto un brano che mischia questi due mondi. Ho capito. Io, Antonio, non capisco mai l'accezione delle canzoni d'amore. Hollywood che accezione ha? Positiva, negativa? Come la descrivi? Ma allora, secondo me, diciamo, c'è sempre un mix delle due cose, no? Non è tutto bianco o nero, c'è anche il grigio. Hollywood da un lato è un po' un vabbè dai, però doveva andare così, vado avanti, un po' è però sai, mi dispiace, un po' è questa è l'ultima canzone che ti scrivo, l'ultima cosa che ti dico è prometti che non ti scorderai di me, e così ci lascia il ricordo. Diciamo, le canzoni sono come gli amori, non vanno sempre tutto bene, non va sempre tutto male, c'è cioè un mix delle due cose. Bene, ma quindi dici un po', tu ti reputi un romanticone? Beh, da quello che mi dici mi sembra di sì. Ma allora, diciamo che io sì, mi reputo un romanticone, poi però all'atto pratico mi faccio prendere dalle situazioni, mi faccio prendere dall'ansia, dagli impegni, dagli orari che non si intrecciano. Okay. Quindi diciamo che sì, romantico di indole, e poi nell'atto pratico faccio un po' fatica, mi perdo tra le cose. Sei un potenziale romantico, allora. Sono un potenziale romantico, esatto. Mi piace questa definizione. Mi piace moltissimo. Bene, Antonio, allora io volevo chiederti anche una cosa. Sono passati, se non sbaglio, un paio di anni dagli ultimi due tuoi singoli. Cosa è successo in questi due anni? Quindi ti sei preso una bella parentesi per far cosa? Sono curiosa. Sì, allora, mi sono preso una pausa davvero importante, comunque due anni sono tanti, non è nemmeno detto che dopo due anni la gente abbia ancora voglia di ascoltarti. E era un periodo in cui le cose stavano andando anche bene, cuffietta, Noi Meno Tu, avevano fatto dei bei numeri, assolutamente, però sì. Poi stavo perdendo un pochino la rotta, cioè ho iniziato a chiedermi, ma quindi che cos'è che voglio trasmettere con la musica, quindi che cos'è che voglio inserire nelle mie canzoni, e mi sono preso del tempo sia per pensarci, sia per scrivere delle canzoni che davvero mi rappresentassero, delle canzoni che davvero dicessero qualcosa di me. In questi due anni quindi ho avuto modo di scrivere, soprattutto il disco che uscirà nel 2021, Hollywood è il primo singolo che lo annuncia. Mi sono preso del tempo per crescere. No, allora non ve lo posso anticipare, ma non per cattiveria, ma semplicemente perché non lo so ancora. Cioè abbiamo tante idee, io cambio idea molto velocemente, perché poi chiaramente in base all'umore, alla giornata, alla settimana, questa canzone la toglierei, questa la metterei vi dicendo. Quindi in realtà le uniche certezze ce l'avrò quando il disco sarà già uscito. Okay. E sarà per fortuna quanti brani conterrà il tuo disco? No, sarà un disco, io adesso punto a 10, okay. Però per sicurezza ne ho qualcuno di più. Già prodotto, via dicendo, perché so già che all'ultimo potrei dire no, questa qua non la voglio più mettere, e però non voglio arrivare all'ultimo a dover registrare nuove canzoni. Sì, sì, capisco. Quindi, esatto. Quindi ne è un po' in serbo di scorta, diciamo. Sì, sì, poi beh, visto anche l'ultimo periodo, comunque ci ha fermato molto discograficamente, però ho avuto modo di scrivere tantissimo, io ormai sono già proiettato al secondo disco, perché questo si tratta di registrarlo in fin dei conti. Oh, ci piace questa iperattività da quarantena. Io infatti, guarda, colgo l'occasione per chiederti di questo periodo un po' particolare, no? Che noi tutti abbiamo vissuto. C'è stata qualche iniziativa chiaramente in campo musicale, tipo video particolari o dirette streaming o concerti su varie piattaforme, che ha catturato la tua attenzione? Oppure io ti anticipo un po' la mia risposta: io ho sentito davvero la nostalgia del live concreto e non sono riuscita a sopperire altrimenti. Però c'è qualcuno che dice invece di aver trovato una via alternativa? Allora, diciamo che il live manca anche a me, penso che il live manchi un pochino a tutti, perché il fatto di essere lì di presenza, il fatto di avere un pubblico davanti, allora lì il concerto non lo fa soltanto l'artista, lo fa il concerto lo fa l'artista e il pubblico. Eh sì. E quindi quella cosa lì, dal punto di vista dello streaming, viene a mancare. Ci sono state delle iniziative, secondo me, importanti, come ad esempio Heroes, sì, che ha coinvolto tanti artisti che hanno provato a fare qualcosa per questo settore musicale che davvero sta vivendo un momento di crisi. Chiaramente artisti molto più grossi di me, io potremmo dire la mia è stata una partecipazione emotiva, nel senso che ho apprezzato il gesto. Chiaramente poi gli artisti che sono scesi in campo sono dei nomi molto più grossi, e questo è un bene, perché vuol dire molta più attenzione mediatica. Però comunque il live mi manca tanto, spero che si potrà tornare a fare dei veri live quando la situazione chiaramente lo permetterà. Però mi ha fatto piacere anche i live da seduti. Comunque è vero, non sono dei veri live al 100%, però c'era la voglia di fare qualcosa lato artisti. Gli artisti volevano tornare in mezzo al pubblico, perché un artista vive del pubblico. Tu, Antonio, scusa se ti interrompo, come ti prospetti il futuro della musica? Cioè, far uscire un album comunque nel 2021, a mio parere, è anche un atto di coraggio, no? Nel senso, registrare, investire del tempo, energie su di un lavoro che uno magari dice potrò presentarlo al pubblico, sarò limitato. Cosa ti prospetti tu? Allora, la paura c'è, però dall'altra parte c'è anche della voglia di andare avanti, dell'ottimismo, nel senso è una situazione brutta, non felice, grave, però deve esserci l'ottimismo. Non puoi ragionare dicendo no, non ne usciremo mai, allora basta, io chiudo qui, non faccio più niente. E uscire nel 2021, chiaramente io ho dovuto posticipare anche l'uscita del disco, perché c'è da parte mia la voglia di portarlo live, c'è da parte mia la voglia di far vivere davvero questo album, perché comunque è un lavoro a cui tengo. E farlo uscire nel 2021, sì, è un po' un gesto di coraggio, perché non sappiamo come andrà. Io spero molto nell'estivo, la possibilità di fare dei concerti all'aperto comunque permette un distanziamento maggiore. Ci speriamo un po' tutti, e secondo me questa speranza va un po' coltivata, perché se i sogni non li coltivano gli artisti e chi ama l'arte, allora non c'è nessuno che li può coltivare. Guarda, mi trovi d'accordo, nel senso che credo sia l'approccio giusto, e credo sia soprattutto l'approccio che la musica richiede in questo momento, no? Come tu hai ricordato, è un settore colpito, forse tra quelli più colpiti, e quindi è sicuramente un bel atto di coraggio, significativo ancora di più in questo periodo. Io però, per voltare pagina, volevo chiederti un qualcosa che ha catturato la mia attenzione. Io so che tu sei di origini salernitane, se non sbaglio. Però, sì, esatto, sono di Salerno. Ecco, però ti sei trasferito prestissimo a Milano, giusto? Sì, avevo 3 anni quando sono salito a Milano, quindi in realtà Salerno la vivo d'estate quando scendo dai miei nonni, dai miei parenti, però ho vissuto molto più Milano e l'Interland di Salerno. Ok, ma secondo te questa tua, tra virgolette, doppia territorialità ha condizionato un po' il tuo modo di scrivere, oppure pensi che in qualche modo abbia potuto influenzarti, non so, oppure ti senti milanese doc nonostante le origini? Allora, milanese doc no, non mi ci sento, perché poi soprattutto quando ero più giovane era difficile che ti facessero sentire milanese doc se eri nato a Salerno, era quasi una questione di classi, cioè milanese doc non mi hanno nemmeno mai fatto sentire. Però questa cosa Non penso mi abbia fatto male, anzi, il fatto di ti facciano sentire un pochino diverso, ti facciano sentire un pochino fuori dal gruppo, significa che poi devi cercarti un tuo gruppo. Sì. E questo gruppo poi l'ho trovato con la musica, nei amici più stretti, gli amici che vedo più di frequente sono amici che ho conosciuto con la musica, che ho conosciuto suonando con loro ai concerti. Milano influenza molto le mie canzoni, infatti la prima canzone parla di Milano, 2143 Milano Navigli. Nel disco torno a parlare di Milano e ho deciso di mettere una canzone che parla di Milano perché secondo me è interessante vedere 4 anni dopo che cosa è diventata Milano per me. Non è più la Milano della prima canzone, la Milano dei sogni. E mentre invece sì, ci sono anche delle canzoni che richiamano le mie origini, che richiamano un pochino la mia territorialità, però meno di quanto faccia Milano, ecco. Vedi che piano piano però stiamo riuscendo a farti spoilerare qualcosa, vedi? Sì, in realtà questi spoiler, io ho sempre molto paura degli spoiler, perché come dicevo, all'ultimo potrei decidere di non pubblicare quella canzone. No, questa non credo, perché è una canzone a cui tengo molto per tanti motivi, però qualche spoiler così lo do. Oh, random. Anche per far crescere l'appetito di chi ti ascolta. E esatto, chi segue, esatto. No? Allora, dici un artista che stai ascoltando un sacco in questi ultimi mesi. Noi di solito facciamo la classica domanda: chi è il tuo ultimo ascolto che hai su Spotify nelle recenti ricerche? Oh mio Dio, il mio ultimo ascolto su Spotify penso siano i Pinguini Tattici Nucleari. Ok, ci piacciono. Che mi piacciono davvero un sacco. Secondo me loro con Fuori dall'Hype hanno fatto davvero un salto di qualità incredibile. Penso. Poi sono arrivati al grande pubblico con Ringo Starr. La cosa che mi piace un sacco dei Pinguini è che non si sono piegati a un mercato in un certo senso, ma hanno trovato il loro pubblico. Esatto. E anche quando sono andati a Sanremo, cioè erano i Pinguini a Sanremo, il brano potevano pubblicarlo fuori da Sanremo e ci sarebbe piaciuto uguale, e questa, diciamo, fede a quello che fai a me piace molto, piace davvero un sacco. Secondo me mi accodo e dico che la loro fortuna è stata avere la pazienza di aspettare il momento giusto per arrivare ad un pubblico maggiore. Sono d'accordissimo, cioè questo fattore pazienza secondo me è una cosa che sempre più spesso manca, però penso sia molto importante. La prima cosa che a me dicono tutti giustamente è: sei sparito per 2 anni, cioè sei fuori di testa, perché lo hai fatto? Perché delle volte, anche quando stai andando bene, se non sai dove stai andando, ti devi fermare e dire ok, che cosa voglio fare? Loro sono esplosi quest'anno, però fanno questa cosa da 10 anni, sì, è sì, un sì. Sacco di tempo, cioè sembra che siano usciti fuori dal nulla, ma in realtà vero. Io credo che quei 10 anni loro se li ricordino bene, quei 10 anni di gavetta. Sì, sì, sì. E ci vuole tempo per lavorare, secondo me, un progetto che possa durare nel tempo. Concordo. Concordiamo, Antonio. Ascolta una cosa, Antonio, un'ultima domanda, questa è una domanda personale. Ci vuoi consigliare un film d'amore? Oddio, un film d'amore? Perché abbiamo parlato di film d'amore, no? Ci hai detto due gota dei film d'amore, come Notting Hill, certo. E Pretty Woman. Però, diciamo, un film che, perché no, ha anche influenzato realmente il tuo album, i tuoi lavori. Sì, adesso dico d'amore, ma in realtà anche non d'amore. Allora, ce ne sono davvero tanti. Pretty Woman e Notting Hill ho già detti, quindi non li consiglio di nuovo. E vado su qualcosa di diversissimo, allora. Non un film d'amore, ma The Terminal. Ah, ok. Quello con Tom Hanks è un film meraviglioso, secondo me. Sì. Perché Tom Hanks in quel film, nonostante non sia un artista, secondo me è ciò che un artista dovrebbe essere. Wow. Lui è bloccato in un aeroporto, quindi tra quattro mura, cioè la situazione è del tutto sfavorevole. Sì, sì, sì. Però lui dice: a me la situazione non interessa, io qui mi creo la mia vita, c'ho i miei amici, c'ho il mio lavoro, mi innamoro addirittura. Lui si innamora, organizza quella cena, fa quella specie di, potremmo dire, mosaico per lei. Sì, sì, è vero. E questo è meraviglioso, secondo me è davvero il simbolo dell'artista. Non importa ciò che hai davanti, l'arte è in ciò che tu vuoi vedere. Oh, guarda, con questo bellissimo messaggio ci hai dato un quadro, secondo me, completo di chi è Manfredi. Io sono contentissima di averti avuto qua con noi, e perché eravamo davvero curiosi di fare 4 chiacchiere con te. Quindi noi ti ringraziamo, ricordiamo a tutti di aspettare o qualche spoiler che ancora in giro lancerai, oppure l'album l'uscita ufficiale vero e proprio, sì. Esatto, e niente, ti ringraziamo quindi. Ringrazio io voi, è stato davvero davvero un piacere. Per noi. Tanto. Ciao. Un saluto a tutti, ciao. Ciao. Ringraziamo Antonio, in arte Manfredi, per le quattro chiacchiere. Esatto, questa piacevole telefonata. È vero, è vero. Se avete anche voi il vostro progetto musicale da farci conoscere, ormai sapete benissimo quali sono i nostri recapiti, scriveteci. Ma non fa mai male ricordarlo. Hai ragione. Quindi classe futura 1993@gmail o redazione.classefutura@gmail. Mi sono dimenticata un 1993, secondo esatto, me. Esatto, ma tanto però, gli ascoltatori l'hanno visto in sovraimpressione. Sono così bravi i nostri ascoltatori. No, non c'è la sovraimpressione, vero? Sì, facciamo. Non siamo sul digitale terrestre. Ragazzi, in realtà ci trovate ovunque, lo sapete benissimo, anche sui social. Quindi mi raccomando, se avete il vostro progetto musicale che vi piacerebbe farci ascoltare. Anche che spacca, anche che non spacca. Anche che non spacca. Ecco, no, non vi tenete le vostre canzoni nel cassetto, perché noi siamo famelici, quindi vogliamo sentire tutto. Giorgio, ti piace questa esperienza in radio? Raccontaci un po', cosa ne pensi? Ma è diciamo un'esperienza ancora molto acerba, sono due puntate. Lo vedrete piano piano sciogliersi. Lui fa tutto il timidino. Adesso il bravo ragazzo in realtà è uno scapestrato. Non mostrarmi sotto questa lente mistificatrice. Non è così. Ma quale lente mistificatrice? Ragazzi, noi ricordiamo che dovete rimanere sintonizzati sempre sulle 103.1 FM o sempre in streaming su www.radiocittafugico.it, perché il palinsesto di Fugico Factory è ancora molto molto denso, quindi dopo di noi ci saranno appunto gli altri ragazzi della redazione che chissà, noi li ascoltiamo, quindi spero che anche voi farete lo stesso. Noi però torniamo quando? Dallo tuo appuntamento che mi piace quando hai gli appuntamenti. Sì, ci vediamo martedì della prossima settimana, ricordatevi sempre alle ore 16:30 su questa frequenza. Esatto, ci ascoltiamo un brano tratto dall'ultimo album di Samuele Bersani e rimanete sempre su queste onde. Un abbraccio. Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si trova, motivato e deciso a non cedere come ha fatto finora. Senza dire una sola parola, lo scontro è leggendario, appena inizio. Uno sta zitto e l'altro fa il suo comizio. Non vuol capire di essere troppo in ritardo per dare lezioni a chi invece è in orario. Il passato riposa bellamente nel letto degli ospiti o mi insegue per casa come un'ombra incollato ai miei gomiti da buttarlo giù a calci. Apre bocche e lo fa sempre a vanvera, con discorsi bugiardi e la coda di paglia. Lo scontro è proseguito anche sul treno. Chi è un abusivo, chi paga intero. Proprio così, se non vi è chiaro il concetto, il passato non paga nemmeno il biglietto. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva fame e sete e quel poco equilibrio che ho si disintegra. Il passato è una droga che non ho più intenzione di prendere, mi citofona ancora aspettandosi di farmi scendere col richiamo di ieri, con il tono di voce di un angelo impigliato tra i fili.